quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Quando ti chiami Milan non puoi adattarti a normalità, non puoi volare basso. Si dimette o non si dimette? È perché a questo punto, siccome dopo due giorni in cui mi hanno fatto vivere come un lebbroso, hanno detto che non parlavo perché avevo paura, che mi ero sospeso perché mi sentivo responsabile, che la conferma delle mie dimissioni, la dimissione sarebbe stata la conferma della mia colpevolezza, visto che io ho l'idea precisa di un complotto che vuole raggiungere questo obiettivo per frenare il primo governo che in Sicilia combatte veramente la mafia, io vado fino in fondo. Sarà il Parlamento a decidere. Che decida? Ma io, per ragioni morali che non esistono, non mi dimetto. Combatterò fino in fondo, perché un combattente muore sulle barricate. Tutti li si ritiva su davanti per fare di dispetto eternamente. Giuri, giuri, giuri di tutto l'anno, la morirà grazie di rumore. Giuri, giuri, giuri di tutto l'anno, la morirà grazie di rumore. Niente, Crocetta non arretra di un passo, sono un combattente e morirò sulle barricate. Arretra di un passo il presidente della regione Sicilia, risponde e replica tutto anche a chi lo accusa di una tresca sessuale con il medico Tutino che è stato arrestato, quello dell'intercettazione che forse c'è, forse no. Il chiacchiericcio di una mia tresca sessuale con lui? Io sono rigorosamente pasoliniano e dunque non mi interessano i borghesi e i lipoaspirati. Sapete che Tutino è il medico chirurgo estetico e quindi fa le liposuzioni. Sentite questa. Peraltro anche Crocetta ammette, sì, ho fatto una liposuzione. E allora come si... E allora anche lei è un lipoaspirato. Il Corriere della Sera dice, anche lei è un lipoaspirato. Sì, ma io infatti non mi piaccio. La condisce via così. Vabbè, Crocetta tiene duro, anche noi teniamo duro, cari amici. È l'ultima settimana di 24 mattino. L'ultima settimana di 24 mattino. L'ultima. E poi ce ne andiamo in vacanza, speriamo anche tutti voi, non lo so, ve lo auguro ovviamente. Noi andremo in vacanza e torneremo il 31 agosto, il 31 di agosto. Facciamo solamente 5 settimane di vacanza quest'anno, ci dobbiamo accontentare, e che dobbiamo fare? Allora, il numero per i vostri messaggi è il 349-238-6666. Cari ascoltatori, c'è da dire che, a parte questo, il dibattito è sulle tasse. Mamma mia, posso sopportare per più di un minuto il dibattito sulle tasse che forse verranno tagliate tra un anno? No, ragazzi, ma l'Italia è un paese così, è un paese di burattini e marionette, perché dovremmo discutere adesso se tra un anno verranno tagliate o no le tasse. Ci saranno le coperture, non ci saranno le coperture. O le tasse o si tagliano domani, oppure basta parlarne, non bisogna parlarne, perché sennò mi viene il sospetto, il sospettuccio che, prima regola del buon politico, quando sei in difficoltà, fai un bello annuncio che taglierai le tasse. Ah! E via. Dai, apriamo il Parlamento. Apriamo il Parlamento. Oh, sono in difficoltà. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai vi taglio le tasse. Siete contenti? Forza, forza, gente. No, come no? Sì, certo. Parman generosi come Giglioli, ti taglio le tasse. Via, subito. Bravo. Oh, mi voti? Mi voti? Scambio subito pubblico, dai. Il nostro Alessandro Giglioli dell'Espresso, dove sono in trincea come come crocetta. È una veramente io sono qua a prendere un caffè sul marciapiede di sul marciapiede, devo dire. Cosa ci sono? Fai? Vabbè, messa così. Sapendo che tu mi telefonavi essendo luglio, mi sono svegliato verso le 6, dico scendo a prendere un caffè. Sì. Solo che non trovo un bar aperto. Certo, no, messa così sono a prendere un caffè sul marciapiede, insomma. È brutta, eh? Un po' brutta. Vabbè, però io trasparenza. Cioè, puoi dire su un bar che insiste sul marciapiede. Sto cercando di prendere il caffè, ma non trovo un bar aperto. Ma perché come? Dico, visto che è luglio, scendo anziché prendermi il caffè. Ma come? Ma come? La Milano produttiva. Sto a Milano. Va bene, taglio le tasse anche a Carlo Rienzi, presidente del Codacons. Buongiorno. Sempre più uguale a Berlusconi, vedi? L'ha detto anche Brunetta. Brunetta su Repubblica fa un'intervista e dice: mi è sembrato Berlusconi. Sì, proprio. Ma noi l'abbiamo detto qui anche a questa radio all'inizio, eh? Cioè che è uguale a Berlusconi. Eh sì, che somigliava nella comunicazione. Ma l'hanno detto al Papa. Al Papa. Al Papa. Sì, perché il Papa è bravissimo nella comunicazione. Bisogna essere bravi nella comunicazione in questo paese. Ok, va bene. È uguale al Papa, non so, Giglioli, questa me l'ha sfuggita. Guarda, io non sono un cattolico, però col Papa mi dispiace un po'. No, ma nel senso che punta tutto sulla comunicazione. Però no, bella no, questa il Papa roba. Delle cose. Comunque, diciamo le cose, allora, adesso tocca difendere Renzi. Chiunque mi tocca difendere, se penso un po' te, è l'ultima settimana. Sì. Allora, chiunque vada al potere oggi in una democrazia, diciamo così, avanzata, deve essere abile a comunicare. Altrimenti finisce come Letta, 6 mesi e fuori. È una banalità, lo so, però... No, questo non è una questione di difesa. No, voglio dire che saper comunicare in sé non è una strategia del male. Poi dipende cosa c'è dietro. Anzi, devi sapere com'è. Secondo me quello che hai detto tu, ovviamente, ovvio, ha voluto, era in difficoltà, ma non è solo vi parlo di tasse, è butto la palla da un'altra parte. È un mese che si parla di immigrati. Europa, Grecia, adesso pure crocetta, e lui dice no, che devo buttare la palla da un'altra parte, così vi tolgo l'IMU sulla prima casa. Questo, d'altro canto un politico normalmente fa così. Ma infatti la comunicazione è fondamentale. Rienzi, cosa c'è che non va della comunicazione? Bisogna saper comunicare, su questo sono d'accordo con Giglioli, il politico moderno deve sapere comunicare, sennò, No, non ho detto che non va, ho detto che va benissimo. Berlusconi pure comunicava benissimo. Pure il Papa, domenica per esempio, ha detto il Papa che c'era tanto caldo, siete coraggiosi, cioè, e queste frasi girano tutto il mondo, e così anche questa delle tasse, naturalmente la gente si illude che sta famosa tassa sulla prima casa che va e che viene, va e che viene, possa alleviare una situazione in cui abbiamo, credo, il 67% di pressione fiscale nel nostro paese, cioè non esiste proprio. No, ma è chiaro che che rimane un annuncio per il momento, nel senso che. Ma anche se la togliessero io l'IMU sulla prima casa, che poi sono veramente proprio 3 miliardi e mezzo, che sono manco un aeroplano, un F-35. Siamo a livelli veramente bassi, non si risolverebbe nulla, perché la pressione è talmente forte che c'è questo scivolamento verso la recessione, perché la gente non ha possibilità di comprare quasi nulla. Comunque, no, ma è chiaro. Comunque, Renzi l'ha comunicata facendo un'intervista. Io, sabato era a Milano. Ah, è per quello forse Giglioli che era a Milano. Sono qui, no? Io sono arrivato ieri sera con 3 ore di ritardo. Posso dire qualcosa di cattivo su Trenitalia? Non lo so. Fatemi su Trenitalia, non lo so perché hai fatto un ritardo. Perché hai fatto 3 ore di ritardo? Sì, ma cosa? Un Freccia Rossa? Un Freccia Rossa? No, ma tre? Ma è impossibile. Due. Invece di tre ne ha messi 5, giuro. Se vuoi ti do anche il 9664. No, ti do il numero. No, vabbè, ma ci credo. Prova. Non è che. Beh, abbastanza incredibile che un Freccia Rossa faccia. No, ma che è successo? Era tutto incasinato. I treni da Roma a Milano erano tutti in ritardo. Tutti in ritardo. Vabbè, quando c'era lui, i treni non succedevano. Non succedevano queste. Dai, dillo anche tu, che va di moda adesso. È tornata Forza Nuova, quindi puoi dirlo anche tu, Giglio. Quando c'era lui, con me. No, ma guarda che io sono uno che sono tollerante e libertario con tutti. I razzisti è l'unica categoria che rieducherei con una manica di posta. Ecco, per essere. Comunque, Renzi ha fatto un'intervista, caro quasi omonimo Renzi, al TG2 sì. E l'ha annunciata, no? Perché si è parlato quasi come Berlusconi. Effettivamente ha proprio proposto un patto agli italiani. E anche questa, anche questa l'ho già sentita. Comunque, al TG2 Renzi. Se le riforme andranno avanti, e io credo che andranno avanti, nel 2016 via tutte le tasse della prima casa, IMU e TASI, nel 2017 via una parte importante della tassa IRES, che è un bel colpo per gli imprenditori e per le aziende, nel 2018 scaglioni IRPEF e pensioni. È un patto che io propongo agli italiani. Se le riforme vanno avanti, noi saremo finalmente in condizione di abbassare di 50 miliardi le tasse nell'arco di 5 anni. Che uno lo ascolta così, Renzi, e dice, oh, dov'è che si firma questo patto? E io subito, che riforme devo fare? Perché... Ma guarda che strano, poi quelle più importanti le ha messe al momento delle elezioni, o mi sbaglio? Cioè le pensioni... L'IRPEF. No? Gli scaglioni IRPEF e le pensioni. 2018, mi sbaglio, oggi è il periodo delle... No, è chiaro. Beh, però non anche IMU e TASI prima, IRES poi... Quelle sono due fesserie, due da niente proprio. Vabbè, insomma, però è un patto. Simboliche, va bene. È un patto, va bene. Ma è vero che invece voi con le pensioni fate un gran casino, voi del Codacons, caro Renzi? È partita una grande azione di tutti i pensionati. Grande spostone, cioè, che fate? Contro lo scippo che ha fatto il governo con la sentenza della Corte Costituzionale che aveva detto che le pensioni non si toccavano, le devono restituire. E cioè che parte? E invece gli hanno dato due soldi, un'elemosina, e quindi adesso facciamo una causa collettiva. La causa collettiva, ma se ho letto che le cause collettive è un fallimento, non nessuna che va in porto. No, la class action è un fallimento, quella che fa una sola persona per tutti gli altri, e anche lì la stavano riformando, la Boschi ha detto no, adesso queste cose che abbiamo cambiato le ricambiamo al Senato perché la Confindustria, scusate, so che voi siete un po' vicini, siamo della Confindustria, non è grave. Non è grave, quindi ci ha fatto pressione per cambiarle perché è troppo pericoloso così la class action, e quindi ritornerà tutto come prima. Ma quindi questa è un'azione collettiva. Tutti insieme una causa unica, al TAR del Lazio, impugnando il comportamento dell'Inps che avrebbe dovuto restituire i soldi. Capito Giglioli, è partito già il ricorsone. Però ti piace questa idea del patto? Ma poi non ho capito, Giglioli, devi votare tu le riforme, le devi votare il Parlamento. Perché Renzi dice votatemi le riforme, cari italiani? Milan, l'hai detto tu all'inizio di trasmissione, è un pacco mediatico. Lui ha detto un patto. Adesso ti cadi sui fondamentali, cioè, non c'è nessun patto, non c'è nessuna tassa da tagliare, è un ballon d'essai di luglio che ha usato per spostare l'attenzione dopo che è un mese che piglia schiaffi dalla Merkel, da Schaub, dagli immigrati, dall'Iris, eppure quindi... il caso Crocetta ha dovuto spostare l'attenzione, fa parte del suo lavoro, adesso non vorrei essere cinico, non è house of cards. Allora parliamo di cose più interessanti. Hai trovato il bar? No, sai che è drammatico, mi fa bene la linea. Adesso. No, anche perché se trovi un bar vorrei magari che tu chiedessi al barista che ne pensa se gli tolgono l'Iris. Adesso guarda, se vuoi ti faccio, ovviamente poi ti mando l'IBAN perché non è che lavoro grande. No, chiaro, fammi un po' da croce. Riformista e poi un po' di Vox Populi, un po' di sono Vox contro Populi. Il lavoro gratuito. Sì, mi sembra giusto. Allora, sei contro i razzisti e contro il lavoro gratuito. A proposito, c'è tutto questo dibattito sull'immigrazione. Ieri c'era Salvini, sapete che ci sono alcuni luoghi d'Italia dove ci sono un po' di profughi o forse coloro che vogliono fare la domanda per diventare profughi e qualche contestazione, soprattutto Forza Nuova in prima linea. Glielo fanno notare a Salvini, eh? Sentite un po' qui sul TG3. Credo sa che l'unico altro gruppo che è venuto a esprimere solidarietà qui è Forza Nuova e i fascisti. E chi se ne frega? Se siete della stessa battaglia. Può arrivare anche da Marte o da Saturno. Se uno ha ragione, ha ragione. Quelle sono le vostre battaglie. Una domanda più intelligente? Giglioli? L'hanno subito messo a fianco a Forza Nuova e Salvini. Vabbè, ma è Salvini che... Guarda che la Lega, quando è nata... Io purtroppo questo dramma, che sono un'età e mi ricordo tutto. Quando è nata la Lega alla fine degli anni Ottanta, diceva una cosa non dissimile a quella che dice oggi Grillo. Cioè, non siamo né di destra né di sinistra. Questo non voglio far paragone tra la Lega e Grillo. Voglio dire che però c'è stato all'inizio una rivolta di una parte del popolo del nord, io abitavo a Milano all'epoca, contro tutta una serie di cose, belle o brutte che fossero, una cosa identitaria, e allora la Lega si diceva che non era né di destra né di sinistra, diceva che era sopra, e adesso è diventata, per l'italiano, l'espressione dell'estrema destra. L'estrema destra, addirittura. Destra identitaria, chiamiamola così, destra identitaria, per usare l'espressione di No, perché Salvini dice, Salvini dice se ci sono quelli di Forza Nuova chi se ne frega, cioè nel senso noi non siamo Forza Nuova, se appoggiano questa causa fanno bene, ecco. No, ma il problema non è che quelli di Forza Nuova vanno al corteo di Salvini, il problema è che le parole d'ordine politiche della Lega degli ultimi due anni, da quando c'è Salvini che ha trovato una Lega a pezzi, ha dovuto ricostruire, l'ha ricostruita sulla base di un progetto politico completamente diverso dal precedente, è perfettamente coerente con quello di tutti post fascisti, gli ex fascisti, Casa Pound, Forza Nuova, la Meloni, problema di è comunicazione, Rienzi, è quella, è comunicazione. È sempre un problema di comunicazione. Salvini in questo momento ha una comunicazione che prende, perché la gente è anche un po' stanca del stato degli immigrati, li vorrebbero dare ai greci, dice, in cambio del debito che non ci pagheranno mai più gli immigrati, no? Ricordate, scommettemmo in questa radio che non avrebbero pagato il debito, che sarebbe andato tutto a posto. Una scommessa, era tutta una scena. A proposito di questo, poi ci sono delle persone, per esempio, sentite, ma Facebook andrebbe in qualche modo, qualcuno andrebbe educato all'utilizzo di Facebook. Il vice presidente del Consiglio regionale delle Marche, Sandro Zaffiri o Zaffiri, non lo so, della Lega, si esprime così sul prefetto di Roma. Porco di un comunista al servizio del PD, Gabrielli. Attento che ti abbiamo segnato sul nostro elenco. Arriveremo l'olio di ricino. Te ne daremo tanto. Porca miseria! E poi, ma com'è possibile? Adesso Marino mette dentro Renzi e tutto va a posto. No, fai l'impatto mettendo uno di Renzi. Perché gli mancava questo per poter rimanere sulla poltrona. Marino a Roma. Ma avete capito? Marino, ci arriviamo tra un attimo dopo il traffico. Questa ve la devo far sentire. Marino che perde le staffe con una contestatrice e le dice: signora, colleghi i due neuroni che ha. Ignazio Marino, il sindaco di Roma Capitale. Tra un attimo. Mi scusi, dovrei andare per il traffico. Più avanti? Grazie. 24 mattino. Alino, ma come facciamo adesso noi che tu vai in ferie? Come facciamo? Chi è che ci sveglia con quelle cazzate che dici tu alla mattina? Non sentiamo più Forchielli, non sentiamo più la Veronica Gentili, l'Aurora Lussana e soprattutto la Paola Saluzzi. Debosciato! La radio costa, costa Milan! Alessandro Milan? In ferie? Ai. Milan ha parlato Berlusconi, che se per caso lui viene arrestato, la popolazione deve fare la rivoluzione. Io no, io faccio festa, mi ubriaco, una bottiglia di paravella mi bevo tutta una volta. Alessandro, non facciamo scherzi. Si rientra dopo 5 settimane perché non si può iniziare la giornata senza di te. in queste 2-3 settimane di ferie che farai? Cerchi di togliarti con la barba, che la foto che c'è nel sito di Rede 24 con te che c'è la barba fa letteralmente schifo. Vabbè, insomma, per quel che si è capito, questo si lamenta per la mia barba. È partita questa roba a Giglioli delle mie ferie, ma mamma mia, non voglio fare. Beh, è abbastanza scandaloso, sono d'accordo. Ma no, ma come? Ma anche tu? No, ma è scandaloso. Ma scandaloso di che? Io lavoro, oh, ammira, io lavoro dall'85, 5 settimane di ferie, non ci vado mai. Ma ho capito. Allora, quest'anno ne ho avute 3 ed è la prima volta in 30 anni. Allora, qua va spiegato. Lavorare, ci sono, ci sono dei pali in... a calci nel culo, detto. Va bene, va bene, va bene. Ci sono, ci sono. Mi sa che non hai ancora trovato il caffè. Sei un po' nervoso. No, l'ho trovato, giuro. Deve essere quello che mi ha nervosito. Ma ah, ecco. Tutti, no, adesso, adesso è chiaro agli ascoltatori che Milan è un gran lavoratore. Sì, sì, sì, certo. No, adesso cerchi di rimediare. No, ma allora la questione è che i palinsesti radiofonici, chi mi sostituisce mi deve sostituire per tutto il mese di agosto. Non è che può sostituirmi tre settimane. Quindi no? Lo fai per dare lavoro a un collega. Ma no, per dare lavoro. Ma no, è spirito socialista. Mi sto avvitando in una serie, in un dibattito da cui non uscirò vivo. Puoi chiedere allora lì al barista come... No, il barista mi ha guardato malissimo perché stava ancora riordinando le brioche. Io ero il primo cliente e sarà molto scocciato che l'ho interrotto mentre riordinavo. Vabbè, ma tu urla così senza fare un intervento, urla, ma cosa ne pensa del taglio delle tasse di Renzi? Vabbè, fuori onda contrattiamo poi, va dopo, bene, allora, il prezzo, okay, già dopo. Va bene, va bene. Allora dai, vi voglio fare sentire Ignazio Marino, sindaco di Roma, contestato da una signora. Sentite qua la reazione del primo cittadino. Però il degrado del quartiere non serve in sociale. Ma se la persona alla scuola già le avete filmato una cosa. Parte rispetto per chi ha sofferenza. Fate le persone, signora, sai parlare persone. Provi a connettere i due neuroni e a farli funzionare insieme. Avete sentito? Provi a connettere i due neuroni che ha e farle e li faccia funzionare insieme, peraltro, Rienzi. Ma quando poi la situazione di degrado è terribile a Roma, sì. Vi ricordate quando diceva metteremo a posto le strade? Bene, le buche sono una cosa schifosa su Roma, veramente una vergogna. Una vergogna, alla stazione Termini non ci sono i taxi la domenica, è figlio di 500 metri. Provi a connettere i due neuroni, è una signora. Cosa pazzesca. È fantastico però, Giglioli, tu che ne pensi di un sindaco? Ma guarda, posso farti un commento di... Siccome è una delle mie discussioni preferite con i miei amici, quelli di qua io lo dico. No, sì. Io penso che tutte le cose che ha detto Rienzi sono vere, c'erano anche prima, tutte. Sì. Con questo non voglio dire che Rienzi è un buon sindaco, buonanotte, che Marino è un buon sindaco. Però tutte non è, adesso c'è questa vulgata che è tutta colpa di Marino, va bene, ripeto, è un sindaco che finora non ha ottenuto alcunissimo risultato, sì. Però il taxi che non c'erano, le buche, la spazzatura eccetera, cioè, io abito a Roma da 10 anni, non ho mai visto niente di meglio. Ma lui doveva cambiare le cose, no? Sì, no, va bene, però adesso sembra che, per carità, sono il primo, io con i miei amici sono quello che fa la posizione più anti-Marino. C'ho un tombino sotto casa mia, te l'ho già detto l'altra volta, qui ho augurato buon compleanno perché è un anno che è sfondato. e rimane così. Detto questo, un politico non può, io lo so, è umano, poi un politico non può. L'elettore è il suo datore di lavoro, sì, quindi sì. Non può. No, ma poi bello, signora, provi a connettere i due neuroni che ha e li faccia funzionare insieme. Puoi farlo tu, posso farlo io, cioè, non abbiamo delega, non abbiamo rappresentanza, non è educato neanche se lo facciamo tu. Ma se tu hai una delega, una rappresentanza, non puoi farlo. Ci sono i viali con le foglie, le viali delle ministre è pieno di foglie. Ma dove che c'entra le foglie? Quelle? Le foglie sono cadute a novembre. Oh. Ma vuol dire che non è passato nessuno da novembre. Vabbè, ma so secche, dai, su. Ho capito, ma questa è una prova provata. Noi abbiamo fatto un esposto alla Procura della Repubblica. Non è possibile, non sei passato. C'è un problema con le foglie. Sì, vabbè, adesso poi andiamo in una classica discussione di Roma. Quelli che abitano a Roma piace farle. Sulle foglie? Comunque c'è un no, sulla manutenzione che fa schifo. Mi pare, mi hanno detto che c'è un grossissimo problema di... come aziende, specialmente per il reparto giardini, aziende che appaltano i lavori perché quelle precedenti erano tutte... Ma di che parlate a Roma? Parlate di queste cose qui a Roma, è fantastico. Ti abbatto. No, no, ma è bellissimo il dibattito sulle foglie, Vabbè, ma è colpa delle aziende, non è colpa di chi amministra. No, che hanno aziende, ti riferisco a tesi che ho sentito, io poi non voglio fare l'avvocato di Ce la prendiamo con qualche aziende erano tutte aziende inciuciate, cioè allora lui ha tolto gli appalti, non ancora no, ma è fantastico, stiamo assistendo a un bar tipico di Roma dove si discute si discute delle foglie, della potatura degli alberi, il problema di Roma è come a Palermo il traffico, dai, il problema di Roma sono le foglie, diciamo la verità. Senti un po', Giglioli, vabbè, come, giusto per concludere, c'è qualcuno che chiedeva in che zona di Milano cerca il bar Giglioli, ma l'ha trovato. Volevano farti fare un po' volevano farmi la pelle, no? Ma no, i nostri ascoltatori sono gentili, vogliono fare il navigatore per te. Per concludere, com'è il clima lì all'Espresso? Siete pronti alla battaglia con Crocetta? Adesso, con tutto rispetto per Crocetta, però noi questa rave qua le facciamo da 60 anni, dai tipi del piano solo, nei casini giudiziari con le procure che smentiscono. Siamo una settimana sì e una settimana no. Quindi siete tranquilli. L'ultima volta che abbiamo avuto con la procura di Palermo è stato quando ho smentito l'esistenza dell'indagine su Schifani, poi ovviamente loro hanno smentito, noi l'avevamo scritto, chi aveva ragione? Noi. Vabbè, e quindi... Questo con la procura di Palermo. Quindi siete tranquilli, siete sereni. Non è, diciamo, il tema... No, stai sereno o orrendo? Poi quando uno dice sono sereno, di solito perché l'hanno appena blindato, quindi per favore non usare questa espressione. Semplicemente è una delle tante battaglie a cui siamo abituati, tutte le settimane. Però c'è Crocetta che non retrocede un passo, si sente sicuro. Ma noi non abbiamo la battaglia contro Crocetta, politica, è una battaglia. Un po' è diventata una battaglia. No, perché Crocetta dice dimostrate di avere questo... È un problema suo se lui fa la battaglia. Noi non abbiamo nessuna pregiudiziale politica, né favorevole né sfavorevole. No, non per questo, ma una battaglia perché lui dice tiratela fuori questa intercettazione. Tiratela fuori, tirino fuori le fonti. Noi non possiamo perché bruceremo le fonti, le manderemo in galera. Se la procura apre un'indagine, le trova le fonti, a quel punto alcuni si scuseranno. Staremo a vedere. Intanto buon caffè Giglioli in Veneto, ci dice un ascoltatore, le foglie le raccogliamo noi, non aspettiamo il sindaco. Eccolo qua. Grazie anche a Carlo Rienzi del Codacons. Alla prossima. 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qui a leggere i giornali, a ricordarvi che parleremo dell'attualità, soprattutto il tema dell'immigrazione. Avremo con noi dalle 8:15 Veronica Gentili, torna con noi del Fatto Quotidiano, così come avremo il direttore di Radio Padania, Alessandro Morelli. E avremo anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, con noi dalle 8:35, insomma... Cari ascoltatori, tra l'altro è partita l'ultima settimana, bisogna dire la settimana decisiva, non per l'abolizione delle province numero 116, ma per le nostre ferie. È l'ultima settimana in cui siamo in onda, poi dopo ci fermeremo da venerdì fino al 31 agosto, ritorneremo solo 5 settimane di ferie purtroppo quest'anno, ci dobbiamo limitare e allora va bene così, mentre le settimane decisive per l'abolizione delle province continuano, 116 come detto inizia oggi e chissà, forse in agosto si fermeranno, forse non le aboliranno in agosto. Che sta mangiando Lorenzo Nespoli? Sta mangiando come se fosse un panino, un kebab alle 7:19. Siamo ormai in clima vacanziero. Va bene, dai, andiamo a leggere i giornali. È lunedì 20 luglio, i titoli, il Sole 24 Ore ha la classifica annuale sulla qualità nelle università, la vedremo dopo con Mauro Meazza, vi dico solo che vincono nella classifica della qualità universitaria Verona come Ateneo Statale al primo posto davanti a Trento e al Politecnico di Milano. Mentre tra gli Atenei non statali vince la Bocconi di Milano davanti alla LUIS di Roma e a Milano San Raffaele al terzo posto. Ma vedremo poi i dettagli di questa classifica, la classifica delle università, vincono Verona e la Bocconi, questo è il titolo di prima pagina del Sole. Poi Sapete che Renzi ha annunciato, e lo vedremo, il patto con gli italiani, e cioè vi abbasso le tasse se approviamo le riforme. Crollate le verifiche fiscali, questo è invece il titolo di prima pagina del Corriere della Sera, che riguarda le tasse ma in maniera più concreta, e cioè dopo il caso degli 800 dirigenti dichiarati illegittimi dalla Consulta, l'Agenzia delle Entrate già perse 1,5 miliardi, si rischia un buco da 5 miliardi. Al di là dei dibattiti futuribili sulle tasse, La Stampa, tasse, primi tagli al ministero. Il Messaggero, casa e fisco, ecco i risparmi. Il Giornale invece, Renzi ha fatto sparire 90 miliardi, gli annunci del ballista, questo è il titolo di prima pagina, mentre Il Giorno, tasse, i dubbi del tesoro, malumore tra i tecnici di Padoan, trovare 45 miliardi in 3 anni è impossibile. L'Unità invece si concentra sulla spending review, partita la spending review, anche questa l'abbiamo sentita un po' di volte, 20.000 poltrone in meno, questo è il titolo di prima pagina. Mentre Repubblica si concentra sulla Sicilia, guerra aperta tra Crocetta e il PD, è un golpe, io resto, questo è quello che dice Crocetta. Vogliamo partire però dai dati sull'immigrazione, vi dico qualche numero e qualche articolo sul dibattito. I numeri intanto, i numeri sono sempre importanti. Fabio Tonacci, pagina 14 di Repubblica. Gli sbarchi sono in aumento rispetto all'anno scorso solo dell'8%. La matematica, scrive Repubblica, la matematica dell'accoglienza non è un'opinione, altrimenti succede che 19 profughi a Casale San Nicola alle porte di Roma sembrino 100, 1000, 10.000, una sorta di orda ingestibile. E allora i numeri sono questi. L'Italia sta gestendo 84.558 richiedenti asilo, 84.558, meno della metà di quelli che gestisce la Germania, 200.000. Questo dato lo avevamo già chiarito in passato, ma è importante. Non mi sembra che ci siano grandi scontri e casini in Germania per questa gestione, che è più del doppio di quella dell'Italia. Comunque, certamente sono aumentati gli sbarchi. Al 17 luglio il dato ufficiale era appunto di 82.932 ingressi dall'inizio dell'anno. Nello stesso giorno di un anno fa il conto era di 76.634, quindi sono aumentati l'8% rispetto all'anno scorso. In tutto l'arco del 2014 alla fine sbarcarono in 170.000. Quest'anno non ci discosteremo molto da quella cifra. Questi sono i numeri. E poi che succede? Succede che ci sono state le manifestazioni, le tensioni che si annunciano anche in Campania, come racconta il Messaggero, dopo Roma, dopo il Veneto, dopo la provincia di Treviso con Quinto, ora anche in Campania, racconta il Messaggero, ad Acerra gli abitanti hanno spiegato di essere preoccupati per le condizioni igienico-sanitarie e la posizione degli alloggi per l'arrivo di alcuni profughi. E poi diciamolo francamente, c'è chi perde la brocca. È il caso del vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche, Sandro Zaffiri, della Lega, che ha scritto testuale su Facebook le seguenti parole, riferite al prefetto di Roma, Gabrielli. Porco di un comunista al servizio del PD, attento che ti abbiamo segnato sul nostro elenco, arriveremo. L'olio di ricino te ne daremo tanto. Al di là della sintassi un po' ballerina, e questo è ciò che il vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche, Sandro Zaffiri, ha scritto su Facebook e riferito a Gabrielli. Ovviamente il PD chiede le dimissioni. La frase shock del leghista, olio di ricino per il prefetto. L'Unità mette anche in prima pagina, Salvini chiedi scusa per queste parole di un esponente di rango regionale della Lega Nord, che ha detto queste parole. Chiediamo scusa a Gabrielli, Salvini ha qualcosa da dire, magari una cosa tipo se ne vada prima possibile questo tizio? Molto meglio organizzare una nuova marcetta punitiva, scrive l'Unità. in prima pagina. Ma non è l'unica frase sciocca, c'è anche questa di un dirigente locale di Ferrara del partito Fratelli d'Italia, si chiama Fabrizio Florestano, che ha scritto le seguenti parole: io ne prendo 100 alla volta, tempo di sparare per farli cadere in una buca, e me ne date altri 100, in una giornata ne faccio fuori quanti ne sbarcano. Ma io dico, ma toglietegli Facebook, verrebbe da dire, ma troverebbero un altro modo evidentemente per esprimere questi concetti profondi, molto istituzionali, molto, molto da politici di rango, devo dire. Cioè, come affrontare il problema in maniera molto pragmatica. Ovviamente sto facendo della macabra ironia, ma è davvero incredibile che ci possano essere dichiarazioni di questo tipo. Certo, colpisce anche l'appello che un albergatore di Igea Marina ha fatto ieri, in provincia di Rimini, Igea Marina, dicendo questo: voglio i profughi nel mio hotel perché mi portano soldi. Questo è il senso molto stretto. Lo Stato paga e io così non chiudo. La vicenda è raccontata bene dalla Stampa, pagina 8. L'hotel della discordia è l'hotel Gelso, un 3 stelle affacciato sulla riviera Igea Marina, qualche chilometro a nord di Rimini. Il titolare Giancarlo Pari, da gennaio all'inizio giugno, ha ospitato 3 gruppi di migranti. Ora invece ci sono i turisti, ma da ottobre voglio tornare coi migranti, che sono stati già qui a gruppi di 10, 14 e 17. Gli ultimi sono andati via lo scorso 2 giugno e io ho ricevuto dal ministero la somma di 32,50 euro a persona al giorno. Mediamente sono rimasti 2 settimane e 20 giorni. Per 10 giorni ne ho avuti 41 tutti insieme. Dunque si fa presto a dire quanto ho incassato. Basta che fate i calcoli. Sicuramente però non sono i 45.000 euro al mese di cui ha parlato qualcuno. Però certo, fa un po' specie, no? Mandatemi qui i profughi, così riempio l'hotel, lucro su questo e avanti così. E come dire, come dobbiamo inserire questo dibattito invece? L'iniziativa del non è nuovo a queste cose, il sindaco di Albettone, Gio Formaggio, provincia di Vicenza, Albettone, come racconta Paolo Berizzi: voglio costruire un muro per bloccare i rifugiati, il muro. C'è anche questo, non bastava solo tra il confine tra l'Ungheria e la Serbia. Ora, voi capite perché in Germania gestiscono 220.000 immigrati che chiedono di essere profughi, di essere considerati profughi, noi meno della metà, ma a noi piacciono le chiassate, i casini, piace fare così, piace prendere Facebook, aprire e scrivere olio di ricino al porco del prefetto, così ci piace, oppure creare muri, oppure dire mandatemi che così riempio l'hotel e ci faccio dei soldi. E ci piace così, gestire così. Allora, invece, che ti ha combinato Ignazio Marino? Beh, ogni giorno si dice la sua pena, però anche lui questa volta se l'è andata a cercare. C'è un video, noi l'abbiamo mandato in audio alle 6:30, di Marino che viene contestato a una commemorazione. Si presenta la signora molto arrabbiata, ce l'ha con la sporcizia, con il degrado di Roma, le voci vanno l'uno sull'altro. A un certo punto Marino reagisce sbottando così: signora, provi a collegare i 2 neuroni che ha e farli funzionare insieme. Ignazio Marino, scontro con offese alla contestatrice. Nuovo caso per Marino, che dice colleghi i 2 neuroni a una signora che contesta. Il Corriere della Sera con Ernesto Menicucci dedica mezza pagina a questo. È l'ennesima gaffe, l'ennesimo problema per Ignazio Marino, sindaco di Roma, pagina 11 del Corriere. Va bene, andiamo subito con grande tempismo a tenere le mani strette sul volante. Ah, questa è anche la settimana decisiva in cui diremo chi ha vinto la classifica di Bani sul volante e la carta costa. Io l'aggiorno su Twitter, nel mio profilo Alino Milan, la potete scoprire lì, quindi già potete portarvi avanti. Ma insomma, questa settimana ormai è quella finale, è decisiva per l'appunto. Oggi il premio Mani sul volante per l'articolo che ci fa più incazzare della giornata va al Messaggero, che riprende quello che scrive il Daily Telegraph, e cioè spese folli per la Mogherini. L'accusa del giornale britannico è questo: a Bruxelles si sarebbero spesi 3 milioni di euro per la porcellana e la cristalleria per l'Alto Commissariato Europeo per la Politica Estera. La guida è proprio dell'italiana Federica Mogherini. C'è da dire che ci sono state le smentite. 3 milioni di euro, questa cifra non è il costo reale, ma un tetto massimo ipotetico di spesa previsto in un appalto di 4 anni. E poi riguarda l'intera struttura, cioè le 140 sedi diplomatiche esistenti sul pianeta. Certo, 3 milioni di euro per la porcellana e la cristalleria, avvedia oh! Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Mila, la maremma giornalaia dell'informazione. Fo per dire. Grande, grandissimo. Vi ho detto di mandarmi le vostre sigle. Regione per regione le vorremmo, dal Trentino alla Sicilia. Mandatele allo 02 46 52 4492, è la nostra segreteria telefonica. Belle queste siglette, ognuna personalizzata con la propria regione. Allora, cari italiani, credete al patto che Renzi ha lanciato ieri, ribadito in un'intervista al TG2, cioè votate le riforme e io vi abbasserò le tasse? Credete a questo? Certo, se l'intento di Renzi, come è di ogni buon governante che punta sulla comunicazione, quello di far parlare di una cosa ancor prima che accada, e cioè intanto stiamo parlando del fatto che forse taglierà le tasse ancor prima di averlo fatto, beh, nell'intento è riuscito Renzi. Ha messo nel pieno del dibattito sui giornali il taglio delle tasse. Ci sarà poi questo taglio? Chi lo sa, intanto se ne parla. Renzi, è un patto che propongo agli italiani, lo ha detto al TG2 ieri, lo ha ribadito in un'intervista dopo averlo lanciato dal palco dell'Expo. Il messaggio di fiducia, e cioè taglio l'IMU, le tasse sulla prima casa, la TASI, taglio poi l'IRAP, taglio l'IRES e poi nel 2018 gli scaglioni IRPEF e le pensioni, a patto di votare le riforme. E allora il dubbio che viene a tutti è: 45 miliardi per fare questo, dove li trova? Prova a dare qualche risposta Yoram Gutgeld, consigliere economico di Renzi e commissario della Spending Review. Viene intervistato dal Corriere della Sera, pagina 2, da Enrico Marro. Le risorse da tagli alla spesa, crescita e margini europei sul deficit. Noi non siamo il partito delle tasse, il dibattito le tasse sono di destra o di sinistra è un modo superato di vedere il mondo, premette Gutgeld, che poi dice: per il 2016 Renzi annuncia un taglio delle tasse sulla prima casa, un taglio che va visto in un percorso di riduzione delle tasse che attraversa tutta la legislatura per complessivi 50 miliardi strutturali. In questi 50 miliardi ce ne sono solo 3,5 che l'anno prossimo saranno dedicati a eliminare la TASI sulla prima casa. Abbiamo deciso di toglierla per due motivi, dice Gutgeld. Primo, sappiamo che l'inasprimento del prelievo sulla casa nel 2011-12 è stato tra i responsabili della recessione, ma allora fu necessario. Secondo, l'aumento delle tasse sulla casa ha prodotto confusione, ansia, paura tra le famiglie. L'obiettivo è rendere conveniente per le imprese italiane ed estere investire nel nostro paese, quando dal 2017 il taglio del prelievo fiscale tornerà a concentrarsi sulle imprese. Lo annunciamo in anticipo, in modo che le aziende, come fecero in Spagna nel 2014, potessero programmare per tempo i loro investimenti. Diciamo fin da ora che nel 2017 ci sarà una riduzione del prelievo tra IRES e IRAP di circa 15 miliardi l'anno. E poi va avanti snocciolando cifre. Ora, bisogna prenderlo come un atto di fede, ovviamente, perché ci sarà o non ci sarà, questo non resta che segnarsi tutto e vedere. Renato Brunetta, intervistato da Repubblica da Tommaso Ciriaco a pagina 4 e 5, dice: mi fa mi ricorda Berlusconi. Renzi ricorda Berlusconi, con la piccola differenza che Renzi non è Berlusconi e ha alzato le tasse. Quando l'ho visto mi son detto: questo è disperato. Se uno dice le stesse cose che da sempre dici tu, non sei contento? Poi però gli chiedi: chi ti segue nel PD? Se no è come la barzelletta del soldato che grida al capitano: ho 200 prigionieri, portali qui, non posso, non mi lasciano venire. Questo è quello che racconta Brunetta di una possibile spaccatura all'interno del Partito Democratico. Sta di fatto che tutti a chiedersi queste coperture ci saranno oppure no. Anche Alfano, il ministro dell'Interno, intervistato da Andrea Malaguti sulla Stampa, devo dire un po' vago. La sensazione è che Renzi, come al solito, abbia preso tutti un po' di sorpresa. Dove li trovate 45 miliardi da qui al 2018? Chiede la Stampa ad Alfano. La realizzazione delle riforme ci metterà nelle condizioni di osare ancora di più in Europa. Faremo tagli selettivi alla spesa improduttiva seguendo la ricetta liberale. Però non ci sono i dettagli, ecco. Ma più deficit senza sforare il rapporto del 3% col PIL, meno debito, un po' di spending review, è un piano o una scommessa? È un impegno con una tagliola, risponde Alfano, perché nel 2016 saremo chiamati ad adempiere. Questa manovra non è berlusconiana, non è... né un'offesa né un complimento definire questa una manovra berlusconiana. La manovra fiscale è solo la prosecuzione della visione del precedente governo a cui ho partecipato. E faccio una proposta, dice Alfano, perché Forza Italia e tutti i segmenti dell'ex PDL non votano con noi? Sarebbe una prova d'amore per l'Italia che non avrebbe nessuna puzza di inciucio. Addirittura Alfano lancia l'idea: Forza Italia voti con noi questo. Ripeto, le coperture ci sono. Secondo Il Giorno, il ministro Padoan è rimasto molto sorpreso, per dire così. I tecnici del Tesoro sono scettici. Raffaele Marmo firma un retroscena, pagina 11 del Giorno, e raccoglie alcuni pareri un po' anonimi, per la verità, all'interno di Via 20 Settembre, cioè il Ministero dell'Economia, del tipo: questi pareri sono «non sta in piedi». E a Renzi mancava una slide, quella sulle coperture. Altri definiscono più che ambizioso, visionario, questo piano del taglio delle tasse. Anche Repubblica racconta del retroscena dell'incontro che c'è stato tra Matteo Renzi e Padoan. Ieri si sono visti per cercare di mettere a punto questi tagli delle tasse annunciati così di colpo da Renzi, e racconta Alberto D'Argenio a pagina 6, nel corso di un riservatissimo vertice domenicale che Renzi, Padoan e i tecnici della Ragioneria dello Stato hanno messo a punto il piano che da qui a fine anno cercherà di portare l'Italia a tagliare le tasse senza incappare nelle sanzioni europee. Nelle pieghe del bilancio Palazzo Chigi cerca i soldi anche per mettere in piedi un piano antipovertà e sostenere così le fasce di popolazione più martoriate dalla crisi. Comunque il punto fermo, dice Repubblica, sul quale Renzi ha impostato il discorso con Padoan, è che nel 2016 l'Italia manterrà il deficit al 2,7%, dunque al di sotto del 3% previsto da Maastricht, senza però rispettare alla lettera gli altri dettami delle regole europee, a partire dal Fiscal Compact, secondo quali Roma dovrebbe far scendere ulteriormente il suo indebitamento avvicinandosi al pareggio di bilancio. Ci sono questi soldi? Non si sa. Di certo invece c'è un buco all'Agenzia delle Entrate. Lo ha spiegato bene nei giorni scorsi il Sole 24 Ore, anche oggi il Corriere della Sera con Mario Sensini a pagina 3. La vicenda del pronunciamento della Corte Costituzionale che ha fatto letteralmente decadere 800 dirigenti dall'Agenzia delle Entrate perché non assunti in modo regolare, secondo la Corte Costituzionale, ha bloccato, portando alla paralisi gli accertamenti fiscali. E quindi controlli dimezzati. Al momento l'agenzia ha già accertato un buco di 1,5 miliardi di euro e si rischia un buco di 5 miliardi. In Lombardia ci sono, pensate, in tutta la Lombardia solo 4 dirigenti operativi, tutti gli altri bloccati da questa decisione della Corte Costituzionale. Ecco, di fronte a un forse taglio delle tasse future, questa è la drammatica realtà di oggi, con la quale invece non si possono fare dibattiti, perché il dato certo è questo: controlli dimezzati sugli accertamenti fiscali, perché tutti i dirigenti dell'Agenzia delle Entrate, molti dirigenti sono considerati non in grado di adempiere in questo momento, e quindi si rischia un buco da 5 miliardi. Ma tanto lo sapete, c'è colui che risponde a tutte le domande, e cioè ci dirà se effettivamente il piano proposto da Matteo Renzi sul taglio delle tasse si farà, sì o no. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno Alessandro, posso invece dare un terno sicuro, secco, sì, su una ruota del lotto? Perché sì, stai ciurlando nel manico. No, mi sembra più semplice, come vista la grandezza degli importi in gioco, mi sentirei più tranquillo a consigliare un terno così. Però aspetta Mauro, prima devo fare un gesto, dobbiamo mandare un abbraccio alla California, Stefano, che è Stefano da Como, ma in questo momento è in California e ci dice: ti sto ascoltando, incredibile, qui piove, ci sono 20 gradi, un abbraccio a tutta la California. Mauro, anche tu manda un abbraccio in California. Sicuramente, Dreaming California, Sognando California. Esatto, Hotel California, vabbè. Anche, sì, però Sognando California c'era anche la versione italiana, vabbè. Ecco. Ecco, a proposito, California, terra di grandi università, come sappiamo, oggi la classifica dell'università sul Sole 24 Ore, come hai ricordato, caro il mio debosciato, com'è questa storia di 5 settimane di ferie? Anche tu, mamma mia, c'è chi fa molto di più, c'è chi fa molto di più, tranquillo. Sì, c'è chi fa molto di più anche e chi molto di contro meno. La sua volontà, però lasciamo stare. Lasciamo stare, no, volevo dirti, questa classifica, in brevissimo, si basa su una dozzina di indicatori, quindi come tutte le classifiche farà a discutere, ci sarà qualcuno che si riconosce, non si riconosce, il risultato è bugiardo e così via, come quella del campionato di calcio. Esatto, uguale. Infatti stavo pensando la stessa cosa. Però consiglio di valutare attentamente i 12 indicatori, perché sono 9 indicatori dedicati appunto alla didattica, 3 alla ricerca, però bisogna anche valutare che cosa uno va cercando dall'università, è perché chiaro. Potrebbe privilegiare una facoltà con un ingresso più favorevole sul mondo del lavoro, oppure una facoltà più dedita alla ricerca. Vogliamo ricordare, tra l'altro, Mauro, vince Verona tra gli atenei statali, davanti a Trento al Politecnico di Milano, e Bologna e Padova, i primi 5 posti, mentre tra i non statali, privati, se vogliamo così, Bocconi, Luis di Roma, San Raffaele Milano, Bolzano e Roma Campus Mio Medico. Queste le prime 5 posizioni. Grazie mille. Poi tutte le classifiche sono anche personalizzabili sul sito del Sole 24 Ore, www.sole24ore.com/, che sarebbe quella sbarretta, sì, la stanghettina, classifiche università, perché sai che purtroppo i computer l'accento non lo capisce, quindi bisogna scrivere università. Vabbè, lasciamo stare, volevo passare però a segnalarti una cosina sulle università. Sai che ci sono delle regioni che, come dire, non erogano le borse di studio ai meritevoli, perché lo raccontiamo nella pagina 5. È un tema purtroppo noto, ma altrettanto negletto, mi viene da dire. Cioè, si sa che sì, ci sia della gente che dovrebbe prendere la borsa, però purtroppo, siccome la regione ha destinato i fondi altrove, non so se questo rientrerà anche questo nel piano di Renzi, però ci sarebbe anche questo problemuccio, perché i soldi a questi studenti non arrivano. Segnaliamo. Poi, hai visto com'è cambiata la nostra spesa, la spesa degli italiani in 20 anni? Sì. Spendiamo un po' di meno per la carne, ma molto di più per la casa. Ti racconto tutto Chiara Bussi oggi sul Sole 24 Ore. E naturalmente un passaggio solo per un adempimento fiscale, il modello 770. Ah. Attenzione, parliamo del modello 770, in particolar modo del bonus degli 80 euro. È una cosa tra me e i miei amici professionisti, sta nelle pagine di Norme e Tributi insieme a molte altre indicazioni utili. Infine ti voglio dire, guidate con prudenza, perché oggi abbiamo una infodata, sai, queste nostre, non so se puoi mostrarlo Alessandro, così è più semplice, grazie, un'infodata che dice che luglio, ohimè, è il mese più a rischio anche solo di un, così, un graffiettino alla macchina, ecco, mettiamola in questo modo per non fare delle notizie da dita incrociate. No, infatti, però guidate, dice, tranquilli ora, guidate con calma, tanto sta finendo luglio, due terzi sono andati e infatti abbiamo tenuto un po' di tempo per evitare di come dire, gravare tutto su tutto quanto il mese, ma tutto ciò premesso e con una certa serenità e con le dita incrociate, traffico! Alessandro Milan, è tempo che tu vada in ferie dell'informazione. Oh, finalmente, finalmente qualcuno che è dalla mia parte. È tempo che tu vada in ferie, ma non so se mi ci vuol mandare, nel senso. Va bene, poi torno forse. Allora, cari ascoltatori, continua la questione Crocetta. Sapete, dopo questa intercettazione che c'è, non c'è, non si sa. L'Espresso dice che esiste, Crocetta dice un complotto non esiste. In questa intercettazione il medico di Crocetta avrebbe detto di Lucia Borsellino bisogna farla fuori come suo padre, e Crocetta avrebbe ascoltato in silenzio senza replicare tutto questo. Capite che proprio ieri c'è stato l'anniversario della strage di Via D'Amelio. Come al solito, vergogna, ogni anno vengono ricordate solo le vittime, e vergogna, dico io, perché non viene ricordato, non viene citato Antonino Vullo, che ha avuto la colpa di essere sopravvissuto a quella strage, quindi i vivi non contano. Lo dico ovviamente polemicamente, come quando abbiamo parlato con Giuseppe Costanza, autista di Giovanni Falcone, sopravvissuto e perciò dimenticato, come è successo a Giovanni Paparcuri, autista di Rocco Chinnici, sopravvissuto e perciò dimenticato, in una vergognosa rimozione da parte delle istituzioni dei vivi solo per commemorare i morti. Comunque, chiusa questa polemica, rimane la questione istituzionale. Crocetta non fa il minimo passo indietro, mentre Manfredi Borsellino, il figlio di Paolo Borsellino, che all'improvviso si è presentato con questo anche discorso e poi seguito da un abbraccio molto, molto simbolico con il capo dello Stato Mattarella, parla al Corriere della Sera, fa un colloquio Manfredi Borsellino con Felice Cavallaro, dice: ho pensato all'ultimo momento, non ci ho dormito la notte, avevamo deciso di non andare alle manifestazioni ma sapevo che il presidente Mattarella alle 3 sarebbe andato a Palazzo Giustizia, allora a mezzogiorno ho buttato giù qualche riga, alle 2 mi sono presentato e ho fatto questo breve incontro col capo dello Stato, poi ho parlato nell'aula magna. Dice di Crocetta Manfredi Borsellino, o meglio non dice: io per il lavoro che faccio, commissario di Polizia di Stato, non entro nel merito del contraddittorio con uomini politici, non posso essere trascinato in dibattiti politici, è roba che non interessa a me e neanche la mia famiglia. La stessa Lucia in questi anni non ha fatto politica, lei è stata assessore tecnico, ha operato tra mille difficoltà e poi è andata via. Il colloquio lo trovate a pagina 8, parla di tante cose Manfredi Borsellino, mentre Rosario Crocetta non cede di un millimetro, dice: sono un combattente e come i combattenti devo nel caso morire sul campo, io mi difendo dalle menzogne, sono convinto che quella si tratti di un'intercettazione ambientale confusa, piena di fruscii, in parte incomprensibile, con Tutino che parla ma senza che nessuno sappia con chi. Certo, non con me, per la semplice ragione che in quello studio io non c'ero. Poi dice del suo rapporto con Tutino: io non è il mio medico personale, non sono Berlusconi. Tutino è il medico dei personaggi più in vista di Palermo. E chi ha vociferato e chiacchierato di una mia presunta tresca sessuale con Tutino, rispondo: essendo rigorosamente pasoliniano, non sono interessata ai borghesi, come non mi piacciono i lipoaspirati. Così si difende Rosario Crocetta. Beh, però anche lei ha subito un'operazione di questo tipo. Sì, è vero, ho aspirato il grasso pericoloso per un diabetico, non ho fatto lifting addominale, ho pagato 3.800 euro in una clinica privata E allora, a lei che dice che non gli piacciono i lipoaspirati, beh, infatti io non mi piaccio, anche perché io sono borghese. Meglio i proletari, posso dirlo? Così Crocetta, che dice, io vado avanti, al limite mi sfiducio il Parlamento, ma questo è un golpe nei miei confronti. Staremo a vedere. La cronaca purtroppo fa registrare soprattutto la morte di un ragazzo di 16 anni. È andato in discoteca, ha preso una pastiglia d'ecstasy, si chiamava Lamberto Lucaccioni. 16 anni, morire a 16 anni in discoteca per una pasticca d'ecstasy, questa è la notizia di cronaca che è più prende pagine sui giornali. C'è anche un'intervista su Repubblica al DJ Angelo Coccoluto che dice ai ragazzi: quello che dico io è il vero sballo, è solo la musica. D'altronde la droga non ti casca in mano, il problema è culturale. Bisogna far capire che andare in discoteca e drogarsi non è automatico. Il problema non sono le discoteche, dice Coccoluto, ma sono gli spacciatori che vedono nei club il luogo per fare marketing. Ma poi ci sono scuole, stadi che dovrebbero essere più sicuri, ma non lo sono. E in questo modo il fenomeno diventa incontrollabile e incontrollato. E infatti, come al solito, le reazioni quali sono? Adesso mettiamo i cani antidroga all'ingresso delle discoteche. Questa è la soluzione di qualcuno sul giorno, come se i controlli invece che l'educazione, la prevenzione fossero il rimedio. Il controllo arriva solo alla fine, no? Fermare le ultime pasticche, ma vabbè. Dai, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, eccolo qua, in diretta anche su Periscope. E certo, dobbiamo andare in vacanza. E allora, una pagina sulla Stampa: tutti i segreti per il trolley leggero. E allora andiamo tutti quanti, quest'anno va di moda il bagaglio light, sapevate che va di moda il bagaglio light, mica queste 7 valigioni, eh? Tutti i segreti sulla Stampa per fare il trolley leggero, che il segreto sostanzialmente è questo: non mettete tanta roba in valigia. Ma chi se ne frega! Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozzino via fuoco! Milan, il cagnas randaggio dell'informazione! Se fossi tua moglie, quante botte ti darei! Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu! Avanti, cari ascoltatori, sono le 8:18 minuti. E allora, prima regola del buon governante, ricordate sempre questa: la comunicazione, saper comunicare. E allora, magari se c'è qualche problema, se sei un po' in difficoltà, tu cosa fai? Ti svegli e fai un bell'annuncio: taglierò le tasse. Nel 2016 via tutte le tasse della prima casa, IMU e TASI. Nel 2017 via una parte importante della tassa IRES. Nel 2018 scaglioni IRPEF e pensioni. È un patto. Se le riforme vanno avanti, noi saremo finalmente in condizione di abbassare di 50 miliardi le tasse nell'arco di 5 anni. Eccolo qua, 50 miliardi di tasse. Succederà, non succederà? Tutti a capire, ma le coperture, ma Padova non era d'accordo, non era d'accordo. Non importa! L'importante è parlarne, infatti i giornali ne parlano oggi. Magari invece i problemi, un po' più concreti, quelli che si vedono quotidianamente, anche ieri, per esempio le tensioni, le questioni sull'immigrazione, ecco, quelli sono invece, si toccano con mano, perché siamo un paese in cui non sappiamo gestire le cose, questo è dato di fatto, ma non adesso, è da sempre. Guardate un numero, i numeri sono sempre quelli che non mentono. In Italia stiamo gestendo 85.000 migranti che chiedono di diventare profughi, 85.000. In Germania ne stanno gestendo 200.000, più del doppio, noi 85.000, loro 200.000. Ma avete mai visto chiassate, proteste, questioni di scontri, casini perché magari mettono 20 profughi? Ne avete visti di queste cose, di queste scene? No, non le vedete, perché laddove c'è uno Stato che sa gestire le cose non succedono queste questi episodi. Salvini della Lega sul tema immigrazione, sentite. Quello che è successo a Quinto io non lo temo, lo auspico. La Lega cerca di far capire a qualche prefetto imbecille di non soffiare sul fuoco. Se poi andranno avanti per la loro strada, i cittadini saranno liberi di reagire come meglio crederanno. Suona come una minaccia. No, io questo pomeriggio fa caldo, io sarei stato con i miei bimbi. Quello che è successo a Quinto, cioè una parte della popolazione, poi anche alcuni di Forza Nuova contro i profughi, lo auspico. Questo dice Salvini nei confronti di qualche prefetto imbecille. Allora partiamo da qua, perché non vorrò dibattere sulla questione delle tasse, su una questione di dove troveremo 50 miliardi, perché non vorrei entrare in questa spirale di dibattito, visto che chissà se le tasse verranno tagliate. Saluto Alessandro Morelli, che è direttore di Radio Padania. Buongiorno, visto che... Buongiorno. Ben ritrovato, visto che mi dicono sempre che ho ospiti comunisti. Eccolo qua, un comunistone, Alessandro Morelli. Non credo proprio. Direttamente a Leoncavallo. Ecco, però una comunistona ce l'abbiamo, la nostra Veronica Gentili del Fatto Quotidiano. Scherzo. Buongiorno, Veronica. Buongiorno. Allora, succedono anche queste cose. Per esempio, Morelli, questa lo so che è la prima domanda che ti tocca, il signor Sandro Zaffiri, Zaffiri o Zaffiri, intanto come si pronuncia? Zaffiri della Lega. Secondo me non è importante. Non è importante, vabbè. Comunque, Morelli, il signor Sandro Zaffiri, vicepresidente del Consiglio regionale delle Marche, che scrive su Facebook, rivolto al prefetto di Roma Gabrielli: porco di un comunista al servizio del PD, attento che ti abbiamo segnato sul nostro elenco, arriveremo l'olio di ricino, te ne daremo tanto. Morelli. Ma allora, riprendiamo la questione per quella che è, giustamente lei ricordato, in Germania ci sono 200.000 profughi, qua però dobbiamo guardare anche cosa è successo nei giorni scorsi, e cioè quando una ragazzina palestinese va davanti alla Merkel e dice: guardi, la mia situazione è questa qua, la Merkel, da buona tedesca e anche peraltro da una persona assolutamente logica, gli dice: amica mia, purtroppo qui non possiamo aiutare tutti, e pianti, e chiaramente i giornali, eccetera, eccetera. E la preoccupazione è proprio quella, anche da queste parti, perché 80.000 vuol dire 80.000 nuovi fantomatici italiani, peraltro 80.000 clandestini che arrivano da queste parti. Perché i clandestini, se sono profughi, se avranno il diritto... Profughi, Milan, faccia bravo, profughi, basta guardare i dati del Ministero dell'Interno e vedere se quei l'anno scorso 170.000 erano profughi o erano clandestini. La stragrande maggioranza, lei lo sa, sono clandestini, quindi stiamo parlando di questo. I clandestini da queste parti non li vogliamo. Clandestini punto. Vanno rimandati, cioè quando finisce tutta l'accertamento, se uno è clandestino va rispedito sul paese. Ma infatti la parola clandestino uno la decide alla fine, no? Non la decide a monte. Beh, oddio, su questo sono abbastanza d'accordo più con Morelli, cioè fin tanto che non sei avente diritto allo status di profugo, fino a quel momento voglio dire, sei irregolare. Ma ecco, guarda, fino a quel momento va bene la vicenda indietro, giudiziaria. Finché non ha deliberato? Intanto si fa l'esame appunto della pratica. Ma va bene la vicenda, insomma, di valutazione, eccetera, eccetera, ma basta una semplice osservazione. Visto che l'Europa ci dice che sono i siriani e gli eritrei ad essere tendenzialmente profughi, quando vedo uno che scende da una barca che è nero come l'ebano, amici miei, siriano ed eritreo probabilmente non è, e quindi a questo punto verrà da qualche altro paese. A questo punto lo rimpatrio. Veronica, no, prima di approfondire questo, però Morelli, non abbiamo risposto questo Zaffiri, ma che dobbiamo farci? Perché si arriva? Ma guarda che c'è un altro di Fratelli d'Italia, tale Fabrizio Florestano, che ha scritto su Facebook: ne prendo 100 alla volta, tempo di sparare per farli cadere in una buca, e me ne date altri 100, in una giornata ne faccio fuori quanti ne sbarcano. Vabbè, ma cosa ci possiamo fare? Purtroppo il caldo è altissimo in questi giorni, quindi però dimostra una tensione che è in generale altissima, altrettanto in mezzo alla popolazione. Io dico una cosa, Veronica, poi dici tu. Se fossi Salvini, do un consiglio molesto a Salvini, che non ascolterà: questo signor Zaffiri deve essere tolto dalla vicepresidenza del Consiglio regionale delle Marche. Poi decida Salvini ancora non ha detto niente, al di là del fatto che venga tolto o meno. Come mai intanto non è stata presa posizione? Vabbè, infatti questo è quello che dico anch'io, cioè secondo me ci sono dei limiti da non oltrepassare, però Veronica... magari, l'ha detto, magari non l'ha ancora detto, cioè non è che adesso però di solito si parla in maniera immediata nell'epoca dei social, lui che sta sul pezzo qualunque cosa accada, no? Staremo a vedere la giornata di questo, oggi, che uno non ha ancora trovato. Comunque, visto il su questo staremo a vedere, può succedere che in qualche modo sia connivente con un certo modo di intendere le cose, ma va, va bene. Va bene. Certo, oggi è una giornata in cui Salvini, secondo me, dovrebbe intervenire su questo Zaffini. Comunque, Veronica Gentili, la questione è che la mia posizione è che uno Stato che non sa gestire queste cose, succede poi che crei queste situazioni abbastanza paradossali, perché non è possibile che per 20 immigrati, 20 ci siano come... No, ma qui è grottesca la cosa. Poi nella situazione romana, nello specifico, no? Che è quella 20. Di Casale San Nicola. No, 19 sono tutta la retorica del portateli a casa vostra col cavolo che vengono nei quartieri dei ricchi. Allora, Casale San Nicola non è una situazione analoga a quelle che si sono verificate quest'inverno, che, cioè, questo dovrebbe essere abbastanza chiaro. Si tratta di un comprensorio in cui ci sono 250 famiglie, gente che poi strepita, si strappa i capelli, anche perché c'è stato un certo tipo di retorica e ormai è diventata una specie di... sono degli untori non appena si affacciano da qualche parte. Ma non stiamo parlando di una di quelle zone di periferia disastrate nelle quali tu vai ad aggiungere problemi su problemi. Non è questo il caso, parliamo di una zona in cui, se ci fosse una volontà logica, non parlo neanche, no, di buoni sentimenti, di assorbimento delle persone, in un posto del genere in cui comunque la qualità della vita è abbastanza buona, assorbire 19 persone che arrivano è un problema irrilevante, anzi fa parte di quella retorica dell'è vorrei vedere, no, i centri profughi a Parioli. Allora, non sono a Parioli, sono d'accordo. Però Casale San Nicola è molto diversa come situazione da situazioni come Torpignattara, Tor Sapienza, quelle che ho visto quest'inverno. No, poi io, la questione sta sempre nei numeri, cioè se ci sono 19 persone, cioè uno Stato, non è possibile che permetta di, non sapendo gestire 19 persone, che avvengano delle manifestazioni di piazza e degli scontri tra la popolazione. No, ma è anche molto molto grave che ci sia ormai una modalità di approccio a questa cosa per cui le persone si permettono di poter avere questi modi anche nei confronti delle forze dell'ordine, nello specifico. Cioè è stato veramente fuori controllo per una cosa che non lo legittima, cioè proprio non lo legittima. Io però vorrei chiedere Morelli, a Radio Padania ovviamente l'ascoltatore tipo dice mandiamoli via tutti, no? In genere la maggior parte delle persone... Beh, noto che anche a Radio 24 e alla Zanzara non è che siano molto più leggeri gli ascoltatori, anzi prima o poi globerò anch'io gli amici Cruciani e Parenzo, perché spesso blobbano noi, ma alla Zanzara mi sento di gran peggio. Ma devo dire che molte persone pensano così, forse sono le persone che intervengono, ci sono molte persone silenziose magari che non la pensano così, non credo che il 100% degli italiani pensino bisogna prenderli, cacciarli via tutti. Assolutamente no, certo, anche insomma le nostre trasmissioni come quelle di Radio 24 sono indirizzate logicamente anche a creare un po' di pepe, altrimenti insomma vorrei capire perché Salvini dice auspico azioni come quella di Quinto. Insomma, non è stata una bella situazione, cioè le prevedo, auspico situazioni come quella di Quinto, cioè di persone che si ribellano fisicamente all'arrivo di migranti che non sono colpevoli per il fatto di essere qui. A Quinto c'erano mamme che allattavano i bimbi per strada e c'erano le tende con persone che hanno acquistato case, perché poi è semplice dire ma non le hanno messe ai Parioli e quindi va tutto bene. Intanto non li hanno messi veramente ai Parioli e magari li mettessero nelle prefetture, visto che ricordiamo che le prefetture le paghiamo noi e molto spesso non, ma a loro questo siamo perfettamente d'accordo, neppure l'affitto. Detto, però perché allora la Lega non si batte quando li infileranno nella prefettura vedremo se il prefetto andrà per strada a manifestare. Detto questo, ma nel vostro caso battute, invece di fare una retorica vuota, perché non provate a chiedere che vengano messi nei quartieri centrali e quelli più ricchi delle città? Ma perché, retorica che non porta da nessuna parte, perché non capisco quali sono le soluzioni che proponete. Le soluzioni per la Lega. Se riesco provo a spiegarlo, perché è inaccettabile, perché i clandestini non devono stare né ai Parioli né in Piazza della Scala Milano né a Gratosuglio Quarto Giaro a Torpignattare. I clandestini devono stare a casa loro, punto. Non devono essere portati da queste parti a 35 ore al giorno. con sì, ma Borelli, con cena, qui è una questione questo che è, il dato. È questo è il dato, è una spirale governo. Che si avvita, non si può stabilire se uno è clandestino o no, fin tanto se fa una richiesta di status di rifugiato o profugo, finché la richiesta non è esaminata. Vabbè, cioè, allora, come si fa? Mi scusi, torniamo, facciamo un passo indietro per favore, e allora mi dica lei se le risulta che ci sono degli stati, dei paesi nel mondo nei quali appunto le navi militari portano dall'altra parte del mare, cioè loro nel paese che dovrebbero difendere, i clandestini. Ma difendere la cosa? Allora, difendere allora faccio la cosa. Una ragione, siccome è questo il problema da cui si parte, poi è chiaro che se c'è un buco e la toppa è peggio del buco, cioè? Ragazzi miei, questa è la situazione nella quale ci si ritrova. Io ribadisco, ma è chiaro, io ribadisco, sono sempre le deficienze dello Stato, questo dico, perché se per esaminare una domanda di status dei politici che vabbè, dello Stato, ma è la politica che ha deciso Mare Nostrum, ma nella politica ci sono stati eccetera. Tutti negli ultimi 20 anni, ha governato anche la Lega, hanno governato tutti. Quello che io dico è che se in Austria, come abbiamo detto varie volte, per esaminare una domanda di status di profugo ci mettono 6 settimane e noi un anno con corsi, controricorsi, ricorsi ai tribunali, e poi si genera questa situazione. Questo, Veronica Gentili, è un po' il problema. Questo è successo, non ne usciamo più. Verificati anche dei casi sgradevolissimi quest'inverno per questa ragione, per esempio il ragazzo che è morto a Terni, vi ricorderete, per cui venne tagliata la gola da questo ragazzo che non avrebbe dovuto essere qui e doveva essere rimpatriato, invece c'era questa lentezza per lui, aveva fatto appunto. Ricorso. Ci sono dei casi di questo genere e come sempre lì c'è un problema del nostro Stato e siamo d'accordo. Detto questo, utilizzare questo tipo di retorica del sono clandestini, perché qui si fermano le frasi, sono clandestini quindi non dovrebbero stare qui, Mare Nostrum e Triton non dovrebbero esistere, quindi non si sa bene qual è il criterio, l'approccio marittimo che si fa, niente, si lasciano lì, non si risolve il problema, si tengono le persone lì, poi come se queste operazioni avessero amplificato particolarmente il flusso migratorio, cosa che non è successa. Cioè quest'anno, con tutto quello che è successo in tutta la zona del Nord Africa, c'è l'8% in più rispetto all'anno scorso. Sì. Quindi si creano dei casi proprio, c'è cioè un tipo e di. Sono gonfiati per cercare di prendere voti. Quando tu chiedi del vicepresidente delle Marche perché lo scrive, non è che ha un raptus, impazzisce e poi chiede scusa. Lo fa perché da qualche parte sa che c'è tutta una fascia di pensiero che è connivente con questo e pensa di amplificare il suo consenso. Questo secondo me, questo caso oggi, insomma, in qualche modo verrà trattato. Da Salvini. Io dico anche questo, poi andiamo un attimo in pubblicità, ci raggiungerà tra 3 minuti anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, capito Morelli? Certo. Va bene. Allora, non aiuta neanche, secondo me, l'approccio dell'albergatore di Igea Marina in provincia di Rimini, che dice: ho pochi clienti, mandatemi i profughi, come ho fatto da gennaio a giugno e li rivorrei da ottobre, perché 32,50 € al giorno riempio l'albergo e guadagno dei soldi. Ecco, cioè non lo so, anche questo mi sembra un approccio umanitario. Io, per carità, gli da una residenza a persone dove non si sa e non si sa dove metterle spesso, e quindi risolve una questione per lo Stato, ma non mi sembra un approccio molto molto sereno quello di mandateli a me così guadagno e riempio l'hotel. Va bene, 3 minuti di pubblicità, siamo con Alessandro Morelli che è direttore di Radio Padania e Veronica Gentili del Fatto Quotidiano, che non ho capito perché ha dato voto Schäuble 1 gli ha dato oggi sul Fatto Quotidiano, 1 gli ha dato a Schäuble, il ministro delle finanze, ma si sa, lei sta con Varoufakis, sta per Varoufakis, e va bene, tra 3 minuti rientriamo in diretta. Allora, siamo qui alle 8:37 minuti con c'è Veronica Gentili del Fatto Quotidiano, c'è il direttore di Radio Padania Alessandro Morelli. Ci stiamo facendo questa domanda: che paese è quello che non sa gestire l'arrivo di 85.000 immigrati che chiedono di diventare profughi o rifugiati nel nostro paese, quando in Germania sono 200.000, ne gestiscono 200.000 e non ho visto gente che scende in piazza, scontri, sedie lanciate, scontri con i prefetti, la polizia o insulti. Ma su questo voglio sentire anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che è con noi. Buongiorno sindaco e ben trovato. Buongiorno a voi, grazie. Allora, c'è qualche problema anche a Napoli? So che per esempio lei vuole... c'è un campo rom che credo si debba costituire in un quartiere. quartiere San Pietro, e c'è un presidio dei cittadini che non lo vogliono. Perché c'è sempre questo approccio frontale quando si tratta di queste tematiche? Ma chiariamo rapidamente innanzitutto le gravissime responsabilità in generale dell'Unione Europea, che non ha saputo gestire negli anni questa vicenda, e mi permetto di dire anche dei governi nazionali che si sono succeduti, che hanno scaricato alla fine sui territori, soprattutto quelli del sud, che sono la prima linea, accoglienze così importanti. Però di fronte a questo noi abbiamo un primo imperativo, almeno a Napoli guardiamo in questo modo, che è quello di accogliere. Nei confronti di tragedie e sofferenze, il primo imperativo morale di fronte a bambini, donne, anziane, persone che muoiono, che possono morire, noi accogliamo. Poi c'è il tema ovviamente delle difficoltà, ma nella nostra città con mille problemi ci siamo attrezzati. Quindi quella notizia è una notizia falsa, quella ha detto lei, perché non c'è nessuno, cioè nel senso non perché l'ha detta lei, quella è stata montata in modo... Cioè non, sono, modo non, non c'è una... Non ci sono nulla i campi rom, anzi l'altro giorno abbiamo inaugurato con un buon utilizzo di fondi europei un centro di accoglienza frutto di una collaborazione con l'Unione Europea, dove ci sta scuola, laboratori sociali, centri sportivi e appunto cucine, letti per 170 rom, lo stesso per gli immigrati e lo stesso ovviamente per napoletani e italiani. Ah, quindi non nasce un campo rom, come lo dobbiamo? Noi abbiamo dei campi rom, noi abbiamo 5.000 rom a Napoli, alcuni dei quali vivono in condizioni drammatiche, soprattutto dal punto di vista sanitario, quindi noi stiamo lavorando per attrezzare in modo adeguato dei centri in cui vivono persone che hanno deciso di vivere con le loro tradizioni e con le loro abitudini nella nostra città. Non c'è la possibilità di allestire nuovi campi perché ovviamente questo non c'è, cioè nella città come Napoli è da questo punto di vista satura, però noi non respingiamo, da noi non esistono le immagini che abbiamo visto l'altro giorno, perché Napoli è una città che sa accogliere, ha una grande umanità e riteniamo che la differenza sia una ricchezza. È questa. Ma quindi quanto secondo lei definirebbe Salvini razzista? Guarda, c'è appunto il direttore di Radio Padania che l'ascolta. Cioè, secondo lei è un razzista Salvini? Ma innanzitutto Salvini ha delle responsabilità politiche enormi, perché lui ha governato questo paese quando esattamente ci stavano gli stessi problemi di questi giorni, e quindi ha fallito e adesso cavalca o addirittura istiga istinti e, come dire, sottolinea quasi come un fatto positivo, anzi nemmeno il quasi, le immagini che ha descritto lei prima, quelle rivolte o quelle proteste che francamente io trovo incivili, perché ripeto, di fronte alle tragedie del Mar Mediterraneo, di fronte a quelle immagini, io penso che ogni essere umano la prima cosa che dovrebbe fare, prima di ogni legge, prima di ogni dettato economico, deve tendere la mano e accogliere. Poi ci sono i problemi, perché esempio i sindaci al nord come al sud sono lasciati senza soldi. Quando sei senza soldi, come fai ad accogliere, come fai a creare un luogo di accoglienza se non hai soldi per realizzare per esempio strutture abitative per gli italiani o per gli stranieri? Dei soldi, guardi, le vorrei fare un'altra domanda tra poco, perché pare che ne tolga altri Renzi tra un po' nei comuni, almeno stando agli annunci. Prima però senta un po', Morelli, hai sentito allora? Ho sentito e cioè con... Napoli probabilmente avrà il 50% di disoccupazione, eppure noi pensiamo agli altri. Beh, non esageriamo. Investiamo soldi dell'Unione Europea, giustissimo, è vero, ma di chi sono i soldi dell'Unione Europea? Scusate un secondo, come se cadessero dal pero, no? Sono sempre soldi nostri. Vabbè, ma il sindaco di Napoli dice che bisogna accoglierli, questa è una questione di approccio, di approccio. Come si direbbe a Napoli, vabbò, li accolga, non c'è problema, però sono clandestini, punto. Questo è il dato di fatto, mentre i napoletani probabilmente... visto che sembra che Napoli adesso le immagini che mi vengono in mente di Napoli di una città meravigliosa, stupenda, ma che con grandi difficoltà. Quindi con il concetto è sindaco mano, prima non certo a delle organizzazioni brillanti del nostro mondo. Il rimprovero sindaco è prima i napoletani, prima si occupi dei napoletani invece diciamo, chiedo scusa, non è che deve arrivare, dico tutto il rispetto ovviamente, lo dico con sincerità, il direttore della Padania, non deve venire certo lui a dirmi che per me la priorità sono i napoletani. Io faccio il sindaco H24, nel mio pensiero quotidiano ci sono i napoletani, quindi su questo. Poi ci sta il fatto che siamo tutti esseri umani e il clandestino non è nessuno, perché Gesù Cristo quando andava da una parte all'altra del mondo non chiedeva il permesso di soggiorno. Io sono anche contro quest'altra vergogna del permesso di soggiorno. Una persona che sta morendo, un bambino che sta morendo, una donna incinta, bombardata dagli occidentali che vanno a fare le guerre incostituzionali, poi magari deve anche chiedere il permesso per non morire, altrimenti viene il direttore della Padania che ci dice che è clandestino. Io credo che dobbiamo rivedere un attimo le priorità, prima le persone e poi la finanza, prima i diritti e poi le oligarchie politico-finanziarie. Allora, prima della domanda sulle tasse, Veronica Gentili, vabbè, ma tu sarai d'accordo con il sindaco, le magistrate? Non è che sono d'accordo, ringrazio il cielo ogni tanto di sentir parlare qualcuno che dica delle cose sensate e intelligenti, e soprattutto le battute su Napoli che fa appunto il direttore della Padania, volevo ricordare che non sono in linea con la nuova versione salviniana, perché sono nord e sud adesso vanno a braccetto, quindi questa è la retorica leghista, quindi adesso non si può più dire che Napoli tutto sommato non è un esempio, non funziona più come tipo di trend. Dopodiché il tipo di obiezione che viene fatto mi fa anche sorridere, perché ormai gli argomenti sono stati talmente consumati e usurati, cioè non ci sono proprio più, che ci si rifà soltanto alla parola clandestini e non c'è nient'altro da dire, cioè mancano proprio gli argomenti da tutti i punti di vista, quindi non mi sento neanche più cercare di l'apologia della xenofobia, cioè non sanno neanche più cosa dire. Allora, su questo però, sindaco, visto che noi la dobbiamo salutare, oggi anche Il Mattino titola che se Renzi portasse avanti questo patto sulle tasse, cioè 50 miliardi in meno di tasse, beh, i comuni si troverebbero con qualche, però a Napoli lo sgravio medio sarebbe di 353 euro per cittadino. Lei potrebbe dire, beh, sono contento per i cittadini, ma con che soldi poi porta avanti il comune? Come la vede questa promessa di Renzi? Renzi è un mattaccione e furbaccione, ma ora non ci fa più festa, perché sono anni che noi subiamo tagli, la città di Napoli in particolare, ma ripeto, tutti i comuni, da quelli del nord, del Trentino, per finire a Lampedusa. Anche quando fece la famosa operazione di 80 euro, poi si scoprì che era un taglio ai comuni. Adesso fa una propaganda tipicamente berlusconiana, e dice taglio le tasse, poi vai a vedere, in realtà lui non le taglia perché le carica sui comuni. Ma poi anche, non ci credo nemmeno che elimina le tasse. Io quello che so, e noi abbiamo pubblicato i dati anche in questi giorni, che nel 2015 e nel 2016 nella sola città di Napoli Renzi ha tagliato 350 milioni di euro. Quindi Renzi sta un po' creando in Italia una piccola Grecia, ci sta strangolando ogni giorno per far sì che i sindaci potevano tagliare i servizi essenziali. Speriamo di no, speriamo che non finisca come la Grecia. Però. No, quello no, ma le politiche sono le stesse, perché quando vai a tagliare poi ai comuni, si fa tagliare gli asili nido, alle scuole, alla manutenzione delle strade. No, ma è chiaro, i servizi dei cittadini. Io non ci credo più, devo dire, perché lui è stato sindaco, quindi all'inizio, devo dire, mi aspettavo un approccio un po' diverso. Invece credo che sia la peggiore tradizione dei governi liberisti degli ultimi anni, con più propaganda ancora rispetto a prima. Due domande flash, ma lei si ricandida a Napoli? Io mi ricandido. Sì. Si ricandida. E De Laurentiis, l'ha sentito, ma ha saputo, ma questa storia del poliziotto aggredito, ma è vera secondo lei? Ma insomma, per sapere se è vero o meno uno ci doveva stare, no? Deve essere testimone. Da quello che leggo mi sembra abbastanza verosimile che sia accaduto quello che ho letto. Mannaggia, che brutta cosa questa, no? Dovrebbe chiedere scusa come minimo al presidente. Ma bisogna, ripeto, io capisco i momenti di tensione, nervosismo, fa caldo, ma il rispetto delle persone viene prima di ogni cosa. Fa caldo, diciamo così. Caldo sì, stanno 45 gradi. Vabbè, sì. Ringraziamo il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che è stato con noi, con Veronica Gentili, Alessandro Morelli, dopo il traffico, riprendiamo. Siamo ancora qui, sono qui a battagliare i nostri due. Allora, alle 8:47 minuti qua, Morelli, allora che c'è che non va bene del sindaco di Napoli? Lui vuole accogliere e lo fa, però non è che dice accogliere, non mi dica la solita frase accolga a casa sua, no? Perché perché questa chiaramente sarebbe troppo semplice, me l'ha servita su un piatto d'argento. Li accoglie con i soldi suoi, però perché 35 euro al giorno li paghiamo noi, ai soliti noti, no? Associazioni eccetera eccetera, e sì, tanti non si lamentano. Se poi si va a vedere quali sono le cooperative, per esempio, che erano protagoniste a Quinto, ce n'è una di Grosseto, insomma i soliti noti che alla fine si organizzano e portano a casa i nostri soldi, perché questo è alla fine l'immigrazione, e purtroppo per colpa delle persone che la pensano come i miei tra virgolette oppositori di questa mattinata. I cittadini si ribellano perché alla fine, come abbiamo detto più volte, l'immigrazione si è rivelata semplicemente un business. Ma i cittadini, oppure qualche cittadino, lo so, ma voi oppositori, ma Veronica, tu sei un oppositivo, tu sei un po' un'oppositrice di Morelli. Ma non un'oppositrice di Morelli, no, nel senso, no. Morelli, io non ho nulla contro Morelli. Vabbè, allora mettiamoci d'accordo su una cosa: tu hai dato uno a Schäuble, ecco, su questo sarete d'accordo. Uno ha dato al ministro dalle pagelle. Le pagelle, Veronica Gentili, il lunedì sul Fatto Quotidiano ha dato una a Schäuble. Sarà d'accordo anche Morelli su questo. Perché hai dato un iShow? Io avrei potuto dargli anche zero, però sì, mi sembrava così poco. Beh, perché penso che in realtà, guarda, sono un po' in contraddizione, perché per alcuni aspetti meriterebbe 10, nel senso che ha finito di dimostrare quella che è la vera faccia dell'Europa, per cui per alcuni versi secondo me ha anche fatto un favore, cioè è stato meno ipocrita di altri personaggi che sono stati, che hanno ammantato di più il tutto. Lui ha chiarito che la linea europea è quella di del rigore. Non è soltanto il rigore e l'austerity, che ormai anche queste sono diventate, no, le parole fisse, come la solidarietà usata a caso, no, parole messe così. Sì. Credo che sia proprio una linea di Europa diversa, in cui tutta una serie di paesi sono vissuti più come zavorre, come pesi. Non credo che l'uscita della Grecia sarebbe stata realmente, dal punto di vista di Schäuble, un problema. Se non anch'io sono d'accordo, se non rispettava le regole, Schäuble probabilmente... Lui non la vede come un dramma, cioè secondo me è un alleggerimento. Preferisce gente che rispetta le regole. Lui preferisce... Sì. Non è che rispetta le regole, lui preferisce un'Europa nordica, secondo me, no? Più mitteleuropea, mannaggia, con un certo tipo di idee. Il problema è che Morelli, che c'è questa logica del volemos e bene, perché il problema non è Schäuble, è chi ritiene che l'Europa sia appunto questa, questo grande paese, questi oramai quasi Stati Uniti d'Europa, nei quali tutti quanti ci vogliamo bene, e se qualcuno non fa i compiti a casa, vabbè, dai, una pacca sulla spalla e qualcuno gli vedete che... Su questo Schäuble è stato utilissimo, perché ci ha dimostrato che non ci vogliamo affatto tutti bene, che non c'è nessun progetto, nessun disegno politico. Ma vedete che gira e rigira. Ma certo, ma gira e rigira, vedete che l'ho trovato un punto di contatto tra Veronica Gentili e Alessandro Morelli. Se qualcosa da mangiare, magari ne troviamo un altro. No, infatti, magari a tavola un bicchiere di vino. Il mare, no? Ce ne saranno un po'. Non so, per esempio, tu preferisci il rosso o il bianco, Veronica? È difficile, d'inverno il rosso, d'estate il bianco. Bianco. Morelli? Bianco, Morelli? E allora andiamo d'accordo, un buon vino toscano, un vino trentino d'estate. Vabbè, vedete che basta trovare, basta cercare, ma d'accordo si riesce ad andare. Allora, io intanto vi ringrazio, devo dare spazio, grazie a Veronica Gentili del Fatto Quotidiano e Alessandro Morelli, direttore di Radio Padania. Devo dare spazio, come al solito, alle imprese, alle gesta del nostro, dei nostri atleti diversamente abili, che sono partiti da Siracusa e vogliono arrivare fino all'Expo Capitanati, la nostra voce, Samuel Marchese, che sentiamo sempre. Ti abbiamo lasciato, Samuel, settimana scorsa con qualche problema per arrivare a Messina. Ciao, come va? Ciao Alessandro, noi sabato abbiamo finalmente raggiunto Messina, come speravamo. E quindi possiamo anche dire che la Sicilia è stata completata del tutto, e anche se abbiamo avuto dei problemi per quanto riguarda sia la scorta, perché come ben sapete c'era sabato c'era Jovanotti a Messina, quindi certo. tutta la polizia municipale era impegnata il pomeriggio per questo concerto, e quindi abbiamo avuto dei seri problemi per trovarla. Però poi alla fine abbiamo trovato due pattuglie della polizia municipale e la macchina della scorta del sindaco. Poi siamo arrivati al palazzo comunale Zanca, dove ci ha accolti il sindaco. Poi abbiamo assistito anche all'esposizione di uno striscione in onore del grande giudice Paolo Borsellino e della sua scorta, che furono uccisi dalla mafia. Certo, come no, ovvio. Allora Samuel, ora che cosa vi aspetta? Oggi che fate? Allora, questa settimana purtroppo non sarà regolare, perché ci hanno caldamente consigliati di fermarci per questa settimana, perché come sapete c'è l'allerta hot storm, che è un grande caldo in tutta l'Italia. Abbiamo deciso di fermarci e aspettare la fine di questo gran caldo, e quindi ci risentiremo più avanti, perché abbiamo riorganizzato un po' le tappe. Noi giorno 1 agosto ci recheremo di nuovo a Messina per prendere il traghetto, e giorno 2 ci troveremo già a Reggio Calabria ne faremo il tragitto. Mi sembra una decisione molto saggia, Samuel. Tanto rimodulando le tappe, come ci hai spiegato, arriverete all'Expo, ma è bene evitare questi giorni di grandissimo caldo. Allora, ovviamente ti seguiremo. Io, come sai, sarò in vacanza da venerdì e quindi ti seguirà Irene Zerbini, che verrà al mio posto. Federico da Milano, buongiorno, ci ha chiamato, forse c'è spazio anche per lei. Buongiorno Federico. Sì, buongiorno. Senta, non è assolutamente vero che in Germania non succede quello che è successo a Quinto. Io da ottobre, all'inizio di questo mese, sono stato 5 volte in Germania, qualche giorno, tutti i giorni, tutte le volte, alla televisione o sui giornali, ho visto, ho letto di manifestazioni contro i centri di accoglienza. Manifestazioni, d'accordo, ma ha visto, cioè, gente che lanciava sedie, scontri? Ma me lo dica se... Ma non lanciavano sedie perché probabilmente la loro polizia incute un pochino più di rispetto della nostra, perché per non esempio, viene poi perseguita se gli fa un po' la mano contro i manifestanti. Peraltro la Germania non è un paese da prendere esempio sulla gestione degli immigrati, perché lì danno la cittadinanza a gente che non parla il tedesco. Lì lasciano circolare donne completamente velate, con fuori gli occhi, con in palese violazione delle leggi. Vabbè, insomma, Federico, questo è un tema molto, molto anche diverso e molto più ampio. Intanto la ringrazio per il suo prezioso contributo. Devo chiudere, domani siamo qui, però 6:30 puntuale. 24 mattino.